spiaggia. C'è un caldo vento che spira dal mare, la sabbia porta il profumo del sale. Rapito sto a guardare. Gabbiani migrano verso la terra, spinti dal vento che spira dal mare. Volano bassi sul pelo dell'acqua, via dal temporale. Tra un respiro e uno sguardo, la prima pioggia è su di me. Tra una nota e il mio canto, il mio pensiero vola a te, ancora a te. La spiaggia intorno ormai è deserta, non c'è più nessuno nell'acqua. Si sente solo la pioggia nel mare, le onde da ascoltare. E guardando e ascoltando, ora piove forte su di me. E suonando e cantando, il mio pensiero vola a te, ancora a te. Tra un respiro e uno sguardo, piove su di me. Tra una nota e il mio canto, questa pioggia.